Focus Economia di Sebastiano Barisoni. :17 inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Faremo il punto come ogni settimana, ormai facciamo da mesi, oserei dire, sull'andamento dei prestiti alle imprese, soprattutto quelli garantiti, la parte fino a 30.000 euro garantita al 100% dallo Stato. E come sempre abbiamo ospiti del mondo bancario che ci raccontano come sta andando l'erogazione di questi prestiti, ripeto, soprattutto quella che dovrebbe essere più facile, vista anche l'autocertificazione che è stata introdotta nella conversione del decreto in legge, la soglia aumentata a 30.000 euro, il tempo di durata del prestito portato, che si può portare fino a 10 anni. C'è stato però, sappiamo, ci sono stati dei problemi per chi ha voluto ridefinire il prestito, per chi l'aveva già ottenuto a 25.000 euro con durata di 6 anni. E ripeto, di questo parleremo ancora. Per quello che riguarda i temi di attualità, torneremo sulla vicenda della situazione autostradale, perché oggi c'è stata una nuova mattinata di passione con oltre 2 ore di ritardo nei due cantieri fra Genova e la A7, e quindi il tratto di Casello, fra il Casello di Genova Ovest, San Pier d'Arena e la diramazione per A7 A2. Parlo di ore di ritardi oggi, in cui non c'è chiaramente il flusso del fine settimana. Sappiamo che cosa è successo nel fine settimana, soprattutto sul fronte Ligure, ma non solo, perché ci sono stati anche disagi sull'A14 nel tratto Teramano Marchigiano, e da giorni si registrano code e rallentamenti. Alcuni viaggiatori hanno lamentato che per percorrere 100 km ci sono volute fino a 6 ore. Il tema è il controllo delle gallerie, e sono 147 sulla rete Ligure, ma non solo, dei viadotti, e la domanda che molti si sono fatti è perché in primis la concessionaria Autostrade per l'Italia non abbia fatto questi lavori durante il lockdown, cioè perché ci troviamo con i cantieri proprio adesso, dove il turismo latita, e quel turismo che vuole arrivare in Liguria, ma non solo, anche per esempio nelle Marche, si trova poi incolonnato per ore. Qui c'è, e dovremmo avere ospite, anche il responsabile della gestione di Autostrade per l'Italia, Enrico Valeri, se riusciamo a, perché aveva un impegno proprio in ministero. Qui c'è un problema che lamenta Aspi su come sono cambiate le richieste da parte del ministero, e quindi hanno dovuto rifare tutti i controlli, tutte le verifiche. Un elemento un po' tecnico, ma per capire esattamente che cosa è successo. La borsa, vedo che alcuni di voi già me lo chiedono, ne parleremo come sempre. Per quello che riguarda la giornata di oggi, poi daremo anche altri elementi di carattere internazionale come sempre, tra cui e nazionale. Oggi c'è il dato per esempio sull'inflazione, a breve lo ricorderò, che segnala una deflazione generale, ma un'inflazione ancora presente, anche se un po' in calo, sui cosiddetto carrello della spesa, i beni da carrello della spesa. E vi do già il dato: l'inflazione a giugno ha fatto nell'Unione Europea più 0,3%, in Italia ha fatto, rispetto all'anno prima, quindi a giugno del 2019, meno 0,2%, più 0,1% rispetto a maggio. Però attenzione, c'è stato un effetto deflazionistico, come si dice in gergo, cioè di prezzi in calo per via dei prodotti energetici, meno 12%, ma l'andamento dei beni alimentari e beni per la cura della casa e della persona, quindi quello che si chiama il carrello della spesa, cioè beni a maggiore frequenza d'acquisto, hanno fatto un più 2,3%, in rallentamento un po' rispetto a maggio, più 2,4%, ma si conferma una forbice molto ampia tra l'inflazione generale e quella invece dei beni a maggiore consumo, a maggiore richiesta. La borsa, dicevo, leggermente negative alcune borse oggi in Europa, a partire da Milano meno 0,40, Parigi meno 0,30, Francoforte più 0,50, Londra meno 0,80, Dow Jones più 0,20, ST Microelectronics più 2,90, Fiat più 1,40, Terna più 1,20, Amplifon più 0,70 come Snam. E invece sul fronte opposto Segnalo Telecom Italia che perde il 3,30, Pirelli il 2,80 come Mediobanca e il 2,60 lo cede Poste, ma anche il Banco BPM, il 2,30 Moncler, l'1,70 il calo di Recordati e Atlantia, l'1,5 quello di Buzzi Unicem ed Eni, l'1,30 quello di Tenaris, Leonardo e Finecobank, l'1,1 quello di Unicredit e Italgas. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo dalla Gran Bretagna, dove se da un lato il governo britannico ha annunciato una misura di lockdown nella città di Leicester dopo un aumento di casi di coronavirus, il premier Boris Johnson ha annunciato oggi investimenti statali per 5 miliardi di sterline da destinare alle infrastrutture e ai servizi pubblici al grido di costruire, costruire, costruire. Lui ha citato di nuovo il New Deal del presidente americano Franklin Delano Roosevelt, quello varato negli anni 30 per rispondere alla crisi del 29 e che ebbe come cardine, aggiungo io, proprio gli investimenti pubblici, cioè il famoso Tennessee Valley Authority Act. E la logica, detta in una battuta che circolava al tempo, era piuttosto che non avere persone che lavorino, meglio che qualcuno scavi una buca la mattina e avere qualcun altro che la ricopra la sera. Era un paradosso per dire che gli investimenti pubblici dovevano servire in opere infrastrutturali che poi furono fatte negli Stati Uniti, ma dovevano queste opere infrastrutturali soprattutto servire a non aumentare la disoccupazione che stava dilagando nel 29, nel 30 dopo il crack di borsa e diciamo, tutto l'effetto slavina che ne conseguì. Comunque Johnson, pur essendo conservatore, pur venendo, come ricordavamo ieri, da un'altra, diciamo così, parrocchia, se vogliamo dire, fa un forte richiamo oggi di nuovo al New Deal di Roosevelt. Ha chiarito Johnson che i 5 miliardi sono un pacchetto iniziale di risorse aggiuntive, comunque non insignificanti, che vanno ad aggiungersi ai pacchetti già lanciati, quindi 34 miliardi per la sanità, 40 miliardi per le scuole, 100 miliardi per le infrastrutture. Nel frattempo Air France invece annuncia, abbiamo già visto il piano di tagli di Lufthansa e di altre grandi compagnie aeree. Air France oggi ha comunicato ai sindacati che vuole ridurre di 7.500 i posti entro la fine del 2022, di cui 6.500 in Air France e 1.000 nella compagnia regionale Hop. Però questa è, diciamo, la richiesta dell'azienda, deve ancora iniziare la trattativa sindacale. E poi per quello che riguarda sempre l'Unione Europea, riapre da domani, 1 luglio, le sue frontiere esterne a 15 paesi terzi, tra cui la Cina, ma a condizioni di reciprocità, fuori dall'elenco gli Stati Uniti. L'Italia ha votato a favore, e appunto queste sono le raccomandazioni dell'Unione Europea. Per quello che riguarda invece l'Italia, e torniamo allora sull'inflazione, dicevo, c'è stato un forte calo dei beni energetici, un forte calo dei prezzi alla produzione dell'industria, meno 5,3% rispetto all'anno prima, e per quello che riguarda però i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona siamo un più 2,3%. Addirittura gli alimentari non lavorati più 3,7%, gli alimentari lavorati più 1,7%, vabbè, i prezzi dei tabacchi più 3%, ma quello che insomma è abbastanza evidente anche nei dati di giugno, come già maggio ed aprile, è la divaricazione tra prezzi generali e prezzi dei beni a maggiore frequenza. Ora vi possono essere anche altre variabili, ma è innegabile, lo dico, che qualcuno sta facendo anche il furbo, nel senso che sapendo che quelli sono generi, intanto durante il lockdown erano gli unici esercizi commerciali aperti dove poter comprare beni per la casa, per la cura della casa, della persona e beni alimentari, ma mi sembra di vedere che visto che adesso comunque c'è un rallentamento in altre forme di consumo, laddove il consumo è rimasto invariato per vari motivi, I prezzi sono saliti, a mio avviso, in buona parte in maniera ingiustificata. Comunque sentiamo cosa ha detto il direttore Istat dei servizi prezzi al consumo, Federico Polidoro, al microfono del nostro Alessandro Arona. A giugno come a maggio l'inflazione è negativa, -0,2. Il dato sta dentro andamenti molto divaricati. Da una parte ci sono gli energetici che sono con flessioni a due cifre, sia quelli regolamentati sia quelli non regolamentati, quindi tutto il mondo dei carburanti, benzina e quant'altro. Dall'altra, beni invece alimentari per la cura della casa della persona che hanno un'inflazione sostenuta. Questo mese è stata del 2,3 beni alimentari, prodotti per la casa e la cura della persona. Sembrano ancora gli effetti della fase di lockdown. Sicuramente il mese di giugno dà un dato che è molto paragonabile a quello di maggio. Non ci sono fattori che scartano. Non deve ingannare quel dato negativo, perché in realtà è fortemente influenzato da una componente anche molto volatile come quella dei beni energetici. Se lei vede l'inflazione di fondo, cioè quella che depura il dato generale da energetici alimentari freschi, sta più 0,7 inflazione, cioè è positiva, non è una grande inflazione, ma è un'inflazione abbastanza significativa. Se ripartono le quotazioni del petrolio a livello internazionale, questo segno meno è presumibile che torni rapidamente a più. Ora ce lo possiamo augurare o meno? Allora, invece, per quello che riguarda i dati dell'INPS, adesso arriveremo invece a quelli del mondo bancario. È stato effettuato il pagamento a favore di circa 30.000 lavoratori autonomi dello spettacolo del bonus di 600 euro di aprile e di quello di maggio per un importo complessivo di 1.200 euro. Tra l'altro l'INPS sottolinea che avevano già ricevuto un'analoga indennità per il mese di marzo. I requisiti erano un reddito 2019 non superiore a 50.000 euro e almeno 30 giornate di assicurazione obbligatoria nello stesso anno. E i beneficiari appunto sono circa 30.000 lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo. E da domani, come abbiamo già ricordato in alcuni approfondimenti, ma vale la pena ricordarlo anche oggi, da domani partono alcuni altri interventi predisposti dai decreti del governo. Il decreto di rilancio del maggio scorso prevede ad esempio il super bonus al 110% per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili. Poi sempre da domani parte il bonus vacanze da 500 euro che noi abbiamo criticato non per l'idea stessa ma per il fatto un pochino complicato. Ecco, è molto complicata la procedura divisa tra 80% e 20%. Non ho capito, e tra l'altro impone di scaricare un'app e che consente di ottenere appunto solo lo sconto per l'80% del valore del bonus, il restante 20% vale sotto forma di credito d'imposta. Io avrei preferito fare una detrazione semplice, vabbè. E poi il taglio del cuneo fiscale che porta il bonus di Renzi da 80 praticamente a 100 euro, la riduzione del tetto all'uso del contante da 3 a 2.000 euro. E per i commercianti invece il credito d'imposta del 30% sulle commissioni bancarie applicate sul POS, cioè se uno paga 100 di commissioni bancarie 30 euro li può portare in credito di imposta. E apriamo anche la pagina adesso relativa proprio a MES e cassa integrazione, perché ci sono stati vari interventi prima di arrivare alla liquidità delle imprese. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dunque, allora, poi ne parleremo con Stefano Barrese fra poco. Ieri il ministro Gualtieri ha ricordato che sono stati già erogati 1 miliardo e 600 milioni a 480 mila imprese per le domande a fondo perduto, quelle fino a 30 mila euro. Il ristoro, hanno detto, scusatemi, le domande, quelle sono a fondo perduto, sono le il 20% di quanto hai perso aprile 2020 su aprile 2019, non è la garanzia sui prestiti questo, che è 20% fino a 400.000 euro, poi di ricavi, poi scende al 15% fino a fermarsi al 10%, e ti dà il 20% della differenza di quanto hai perso aprile 2020 su aprile 2019, a patto che tu abbia avuto un calo superiore al 33%. E Gualtieri ha ricordato che sono già stati erogati 1.600.000.000 con 480.000 domande di aziende e negozi che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto. E poi sulla cassa integrazione ha detto Gualtieri: occorrerà prorogare il blocco dei licenziamenti della cassa integrazione e poi intervenire, io su questo sono d'accordissimo, in maniera più selettiva, perché non si può continuare, diciamo, solo con un'operazione di assistenza verso tutti, erga omnes. No, noi dovremo prolungare il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, dovremo gradualmente renderli più selettivi in modo da sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire. Poi ci sono vari strumenti, in Francia hanno introdotto senza il blocco di licenziamenti un meccanismo per cui le aziende devono pagare una parte della cassa integrazione, in Spagna hanno introdotto il modello della decontribuzione per chi assume, c'è anche la questione importante di incentivare le nuove assunzioni e magari anche le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Noi faremo un mix di misure e faremo delle misure efficaci. E poi Gualtieri ha ricordato che secondo l'ultimo dato INPS le domande di cassa integrazione avanzate fino al 31 maggio solo 20.000 a metà giugno non erano state pagate. Tutte le domande che arrivano a giugno si stanno pagando. Prendiamo atto di questo, non ho altro da aggiungere. Invece sul MES Gualtieri ha detto: beh, insomma, siamo pronti a esaminare con grande attenzione con tutti gli esperti dei 5 Stelle in modo pragmatico i pro e i contro, e sono sicuro che tutti insieme raggiungeremo la soluzione più razionale. Alla riunione del governo con i 5 Stelle però è stato toccato anche il tema del MES, che vede i 5 Stelle contrari, l'ho detto anche Crimi, mentre oggi c'è una dichiarazione di Renzi che dice quei soldi ci servono e dobbiamo prenderli. E li prenderemo, questa è politica, non populismo. Invece Matteo Salvini dice: portino in aula un voto sul MES e vedremo il Parlamento, che è sovrano, come voterà. Io penso che la maggioranza sia assolutamente favorevole all'interesse nazionale, mentre Landini dice: non si può sprecare questa occasione irripetibile, perché è anche l'occasione per cambiare l'Europa. E questa mattina 24 mattino con Simone Spezzi e Maria Latella, il sottosegretario all'economia, e mi riferisco a Pierpaolo Baretta, ha detto il PD ha preso una posizione così netta all'intervista di Zingaretti a Corriere sul MES perché è preoccupato che se l'Italia, insomma, non dà l'ok al MES, cioè non, questo possa complicare tutto il negoziato europeo sul pesce più grosso, sul Recovery Fund. Sì, è per questo che il Partito Democratico ha preso una posizione così netta in questi giorni, perché è evidente che dovendo concludere un negoziato difficile sul quale abbiamo assistito per settimane a prese di posizioni contrarie, e soprattutto da domani inizia la presidenza della Germania, la quale ha modificato le sue posizioni, se noi ci presentiamo tentennanti, incerti e magari con una sorta di presunzione che non ci servono le risorse, non si vede perché dovrebbero seguirci nella concludere positivamente questo negoziato. Vanno lette anche così le dichiarazioni della signora Merkel i giorni scorsi, alle quali abbiamo ovviamente come governo replicato, perché avendo noi condotto il negoziato nei termini che abbiamo detto avevamo tutto il diritto di replicare, ma anche perché ricordiamoci che noi siamo stati per 2 mesi il primo paese al mondo per contagi, ma oggi siamo il decimo. Quindi vuol dire che le scelte che abbiamo fatto qualche risultato l'hanno dato. Però sì, sicuramente la preoccupazione che una posizione incerta non aiuti il negoziato. Per questo è bene dire che noi siamo pronti a concluderlo in tutto campo e quando avremo tutto a disposizione siamo in grado di utilizzare le risorse per le varie voci a cui sono destinate. Allora, poi Baretta ha anche detto che verrà presentata la legge di riforma, la riforma fiscale nella prossima legge di bilancio e quanto invece alla cassa integrazione, visto che abbiamo ascoltato anche Gualtieri, anche Baretta ha detto andrà estesa, però mirata ai settori in difficoltà, quindi iniziando ad andare a distinguere, io continuo a raccomandare questa cosa e Baretta ha citato, a mio avviso giustamente, anche il turismo. Anche la scelta di prolungare la cassa integrazione probabilmente sarà mirata, perché ci sono situazioni che hanno iniziato, sia pure con difficoltà, una ripresa economica. Ci sono altre, penso al turismo, che sono ancora in grandi difficoltà e quindi vanno accompagnate. Presumo, anche perché oggettivamente, no, laddove si lavora non c'è necessità di ricorso alla cassa. Dico presumo perché qui bisogna fare anche una discussione con le parti sociali, bisogna sentire gli imprenditori e capire qual è il vero livello di bisogno e sentire anche i sindacati, ma in ogni caso quello che conta è che qui non si tratta di pietrificare, qui si tratta di consentire alle aziende di attraversare questa difficile situazione. In autunno potremmo avere anche problemi maggiori, perché il riverbero della crisi potrebbe condensarsi nel momento della ripresa autunnale. Sarà tra l'altro un agosto strano, perché in molte situazioni si lavorerà, per fortuna. Oh, questo il l'orientamento del governo, ripeto, secondo me appunto alcuni settori, il turismo ma non solo, ieri parlavamo del settore delle manifestazioni, dei matrimoni, degli eventi, sono tutti settori che non hanno in questo momento alcuno spiraglio di tornare a una situazione, non dico come prima, ma diciamo vicina alla situazione precedente, e altri settori invece pur avendo cali li avranno, o stimiamo che li abbiano più contenuti. Comunque adesso andiamo sul meteo e la pubblicità e poi parliamo con torna a trovarci Stefano Barrese, che venne Stefano Barrese è il responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, quindi quello che deve dare i soldi o fare credito a 750.000 tra imprese, aziende, retail e 11 milioni di clienti, e colui che gestisce poi tutte, non personalmente, non direttamente, ma tutta la divisione gestisce anche le pratiche dei prestiti garantiti dallo Stato, quelli fino a 30.000 euro, poi fino a 800.000, fino a 1 milione con la copertura del 90% e poi c'è il fondo di garanzia. Ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. ...17:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Intanto i dati di oggi, la fonte è l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che segnala come a ieri i finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia sono saliti a 42,8 miliardi, quasi 43, per 738 mila domande, di cui la stragrande maggioranza, come sempre avviene, sono per i finanziamenti fino a 30 mila euro, che hanno superato i 13 miliardi di euro per 652 mila domande. Allora, Stefano Barrese, già annunciato, preannunciato prima del meteo della pubblicità, responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, quindi chi ha a che fare con le aziende medio e piccole, 750.000 tra imprese, aziende, retail e 11 milioni di clienti. Buonasera. Buonasera a voi. Noi ci eravamo sentiti, se non ricordo male, proprio in pieno lockdown e appena era partito, pochi giorni dopo che era partita l'iniziativa del governo, quindi 25.000 euro a quel tempo per 6 anni, poi si passava invece a l'80% fino a 800.000, poi si arriva fino a 5 milioni, poi c'è la parte invece dove entra la CDP. E adesso il governo, nel trasformare il decreto in legge, ha fatto salire la soglia da 25 a 30 mila e il tempo da 6 a 10 anni, tra l'altro sempre con però una sostanzialmente sospensione del rimborso i primi due anni in cui si pagano solo gli interessi. Domanda, questo vi ha creato delle complicazioni? Perché alcuni ci hanno segnalato che chi aveva già ottenuto i 25 mila euro ha dovuto rifare tutta la pratica se voleva arrivare a 30 mila e soprattutto allungare la scadenza, che fosse la cosa più interessante. Ma allora direi assolutamente di no, il processo è ormai un processo rodato, sicuramente bisogna rifare una domanda, nel senso che comunque è un nuovo contratto, certo, che ha una scadenza diversa, un ammontare diverso, è plausibile che molti di quelli che avevano chiesto i 25.000 euro in 6 anni lo faranno, anche perché quello rappresentava un cap per molti dei clienti, però dal nostro punto di vista assolutamente no, direi che ormai è veramente un processo molto fluido. Ecco, noi abbiamo registrato in queste settimane, ormai mesi, differenze molto grosse tra banca e banca, addirittura anche tra filiale e filiale. Ecco, questo a voi risulta, nel senso che o siete riusciti, diciamo, a creare un'omogeneità a livello nazionale, almeno sì, nel gruppo allora, vostro? Ma allora, dal nostro punto di vista il modello è unico. Noi abbiamo creato una task force centrale per accelerare i processi di fatto selezione e valutazione, in modo tale da lasciare alle filiali il processo di erogazione, sostanzialmente, per essere molto semplici. Rispetto ai numeri che ha detto prima, mi confortano, nel senso che noi di fatto a fine giugno, dati al 29 giugno, avevamo lavorato sotto i 30.000 euro circa 127.000 pratiche per circa 2.700.000 e sopra i 30.000 euro fra Fondo Centrale di Garanzia e SACE circa 17.000 pratiche per 11 miliardi, quindi mi conforta molto, nel senso che conferma effettivamente che una quota estremamente significativa di quei numeri siamo riusciti a farli in estrema, direi, omogeneità su tutto il territorio nazionale. Quindi 127.000 persone che hanno ottenuto i 25-30.000 euro, sì, e poi invece 17.000 pratiche, sono già erogati questi? Questi sono la misura più importante, sono erogate, altre sono deliberate, ma ormai i tempi che percorrono fra la delibera e l'erogazione mediamente non superano i 2-3 giorni, perché il processo ormai è veramente un processo molto, molto oliato. C'è voluto un po' di tempo all'inizio, come ho avuto anche modo di dire nella commissione d'inchiesta a Roma, ma è chiaro perché era comunque un processo nuovo, in particolare per quanto riguardava queste pratiche di taglio minore. Devo dire che oggi, per quanto ci riguarda, ma i numeri che ha detto prima sono numeri comunque estremamente importanti, rappresentano il fatto che è comunque un processo, un'infrastruttura per consentire il credito su queste fasce di clientela, devo dire, molto efficiente. Ecco, senta, la vischiosità, insomma, le lungaggini, in questo momento si registrano più sui 30.000 euro che però al 100% sono garantiti dallo Stato, o laddove invece la garanzia cala un po', penso dai fino ai 400 e poi fino ai 5 milioni? Ma secondo me sono due cose diverse, nel senso che sulle pratiche piccole, passando una moto abbastanza rumorosa, sulle pratiche piccole in realtà il processo è molto più fluido, la documentazione, cioè, la guiderà qualcuno di Ubi la moto? Non lo so, è uscito prima dal lavoro. C'è un CDA di Ubi Banca in corso, non voglio entrare su questo, prego. Comunque, Barresi, mi dica. Comunque è molto fluido, ma perché la documentazione è più contenuta, e sulle altre è leggermente diverso, nel senso che sulle altre è necessario anche un business plan, e quindi in realtà il processo può avere naturalmente un'aggiunta di giorni, quindi secondo me sono un pochino diverse le due cose. E in generale devo dire che anche sopra i 25.000 euro, dove il taglio medio però va verso le centinaia di migliaia di euro, in realtà è un processo che comunque si chiude nell'arco di un intervallo di tempo che non è mai oltre le 2 settimane, massimo 3 settimane, che comunque è un ottimo risultato. Quindi 127.000 per quello che riguarda il gruppo Intesa San Paolo, per 2 miliardi e 700 milioni complessivi per i 30.000 euro, 127.000 diciamo pratiche, invece 17.000 per un totale di 11.000, per un totale di 17 miliardi, ho capito bene, per le pratiche sopra i 30.000 euro. Barrese, c'è un tema però di fondo. Questa è un'iniziativa che voi come mondo bancario, non solo voi, ci mancherebbe, avete ricevuto dal governo. Il governo decide con il decreto liquidità di dare questa possibilità e le banche sono lo snodo. Però lì in qualche modo, ora non dico facile perché avete avuto anche voi i vostri problemi, ma c'è la garanzia dello Stato fino ai 30.000 e comunque una garanzia importante anche per gli altri prestiti. La domanda è, ma al di là di quello che decide di fare il governo, voi come mondo bancario, voi rappresentate una delle due più grandi banche in Italia, avete iniziative vostre? Faccio un esempio, noi abbiamo un problema anche di mantenere in questo caso non solo la singola impresa o dare liquidità, far respirare, ma di dare anche liquidità e possibilità di respirare, di restare a galla ai cosiddetti distretti industriali. Una volta esistevano le obbligazioni di distretto, i bond di filiera, cioè si dava un vantaggio a chi come impresa era inserito in un distretto, in una filiera produttiva, non stava da solo, perché se sei in una filiera dovresti dare maggiori garanzie anche verso chi ti eroga il credito. Sì, noi abbiamo questo programma che abbiamo rilanciato peraltro proprio durante il coronavirus, è partito diversi anni fa, che è il supporto che diamo alle filiere, questo programma appunto Sviluppo Filiere, è teso proprio a far sì che la liquidità possa arrivare a condizioni migliori legate al fatto che il rating è quello del capofiliera, quindi si riesce a portare un beneficio in termini di minore rischiosità, no, sul cliente, beneficiando del rating del capofiliera, che normalmente è più importante, più grande, è internazionalizzato, e con questa modalità noi riusciamo effettivamente anche ad attenuare e a ridurre gli impatti derivanti da un contesto come questo e quello appunto del Covid. Noi l'abbiamo rilanciato proprio durante questi mesi. In questi mesi abbiamo fatto degli importanti contratti di filiera, peraltro alcuni proprio recentemente. Ricordo il contratto che abbiamo fatto con Gucci, quello che abbiamo fatto con Merlo e quello che abbiamo fatto con Banky. Sono peraltro stati fatti proprio sfruttando questi meccanismi di lavorazione centrale per poi naturalmente alleviare e velocizzare il lavoro sulle filiali, quindi sul territorio, dove è necessario essere più rapidi, più vicini al cliente e poi fare quello che effettivamente il cliente si aspetta, cioè dargli la liquidità. Giusto per fare un esempio, sono numeri di oggi che vi confermavano sulla filiera che abbiamo sottoscritto con Merlo, che è un'importante azienda del Cuneese, e in pochissimi giorni, che sono passate poco più di 3 settimane, in realtà abbiamo già a 90 fornitori erogato oltre 70 milioni di euro. Quindi questo per dare l'idea di quanto poi sia importante effettivamente un programma come questo, no? Dove molta della responsabilità, oltre che della banca nel fare credito, è nel capofiliera, nel selezionare i fornitori, per cui anche un meccanismo di responsabilità generale nei confronti del territorio. Ma avete intenzione, adesso lei citava dei casi concreti, avete intenzione di estendere questo plafond, diciamo, questi soldi a disposizione delle filiere produttive? Sì, guardi, noi abbiamo intenzione, ma in realtà già l'abbiamo fatto. Abbiamo comunicato a quelli che abbiamo individuato essere dei capofiliere di riferimento, che sono circa 2.500, oltre i 700 che avevamo già sottoscritto negli anni scorsi, sensibilizzandoli su quanto sia importante questo programma per loro e per i loro fornitori, perché poi comunque il benessere dei fornitori ricade anche sulla qualità della produzione del capofiliera, rilanciando appunto l'iniziativa e i suoi contenuti, quindi non soltanto collegati con la liquidità di breve e medio-lungo, ma anche su altri elementi altrettanto importanti che stiamo rilanciando proprio in questo periodo, come per esempio le coperture assicurative. Quindi 2.500 aziende che voi ritenete essere capofiliera, e una di queste poi ha tutte delle aziende, immagino, nella filiera. Ma quanto metterete a disposizione? Ma guardi, in termini di plafond, noi complessivamente abbiamo visto che il fatturato complessivo di queste aziende sono circa 200 miliardi, i fornitori sottostanti sono circa 90 mila, quindi su questo in realtà non abbiamo messo un limite, ma in realtà immagini che se complessivamente ognuno di questi potesse tirare anche soltanto un importo che va da 100 mila a 1 milione, è un plafond estremamente rilevante. cui su questo non abbiamo messo un limite. In realtà noi ci auguriamo che la domanda sia la più alta possibile. Ma quindi, per capire, perché noi abbiamo molti imprenditori in collegamento e in ascolto, lei mi sta dicendo che questo sarà un'estensione di un progetto che avevate, cioè annuncerete un nuovo programma, diciamo, per le filiere? Ma guardi, in realtà ve lo sto annunciando a lei, perché le lettere... No, infatti cercavo di... quindi, no, ma insomma, guardi, se mi dà qualcosa in esclusiva io non sono, solo che contento. Di fatto l'abbiamo annunciato proprio in questo momento, nel senso che dal punto di vista operativo il programma l'abbiamo avviato, le comunicazioni ai clienti le abbiamo fatte partire, e questi sono naturalmente i capi filiera che noi abbiamo tracciato all'interno dell'analisi possibile nella ricondizione della nostra clientela. Poi siamo aperti chiaramente anche a quei clienti che vorranno contattarci per poter fare una cosa simile. Ed è un modo estremamente, tra virgolette, sano di fare banca, perché in questo modo si riesce a ottimizzare anche, tra virgolette, la liquidità del capofiliera. Per esempio, questo è possibile attraverso il confirming, che rappresenta proprio uno strumento ideale per mettere, tra virgolette, insieme la filiera, perché consente liquidità immediata ai fornitori e azzeramento peraltro dei tempi di pagamento, quindi, con un'ottimizzazione complessiva dei flussi a livello di filiera. Allora, quindi lei mi sta dicendo che poi l'annuncio ufficiale quando lo farete? Domani, la settimana prossima? Chiedo. Cioè questo programma sviluppo... L'idea è quella di sicuramente annunciarlo con un comunicato, ma è anche di fare incontri poi specifici sui territori con le associazioni piuttosto che con gli imprenditori per appunto rinnovare l'importanza del programma e raccontare naturalmente quello che la banca può mettere loro a disposizione. Quindi un programma sviluppo filiere che dovrebbe coinvolgere nel vostro obiettivo i 2500 aziende capo filiera in Italia, e con un plafond che le dice senza limiti, ma diciamo, insomma, parliamo di quanto? Di 1, 5, 10 miliardi nella sua idea? Ma guardi, noi ci auguriamo che possa essere l'ordine delle decine di miliardi, peraltro di 10 miliardi. Sono compatibili con le indicazioni anche che l'amministratore delegato ha dato della liquidità aggiuntiva conseguente naturalmente alla crisi Covid, per cui è un ulteriore elemento che la banca mette a disposizione per facilitare il percorso di afflusso della liquidità verso il sistema appunto dell'economia reale. E quindi 2500 capofiliere in Italia, aziende capofiliere che voi individuate come capo di una filiera produttiva, per almeno 10 miliardi di plafond. L'ultima cosa però, poi voi, appunto, come diceva, ci sono quando lo faceste per 700 capofiliere erano 16.000 fornitori collegati, 70.000 tanto, dovremmo arrivare 7-14-21 almeno a 45.000-50.000 fornitori collegati, se tutti i 2500 le 2500 aziende capofiliera dovessero farvi ricorso. Mi stanno arrivando alcuni messaggi, penso, io non ho i dettagli tecnici. Mi dice un ascoltatore che ha fatto richiesta da voi per i 30.000 euro il 10 giugno e sta ancora aspettando. È normale? C'è qualche problema? Mi scrive e lo capiamo. Normalmente i ritardi che possono esserci sono spesso stati legati, e il motivo era questo, ha delle domande a volte incomplete, però se c'è un tema non è un problema. E deve scrivere dove Stefano, adesso non conosco la sua mail a memoria, per fortuna non ho mai avuto... Ci sono i canali della banca, se scrive sicuramente la reindirizziamo. Perfetto, no, perché ne stanno arrivando alcune, altri mi segnalano che erano però segnalati al CRIF, può essere, li sto perdendo. Le segnalazioni, quelli sono gli elementi che effettivamente tra gli elementi ostativi ci sono i clienti segnalati, ma su quelli spesso facciamo anche degli approfondimenti, perché non è completamente ostativo, naturalmente lo è per i clienti in sofferenza. Ultima domanda rapidissima: il governo ha inserito nel trasformare il decreto in legge l'autocertificazione. Sappiamo che lì c'era un problema della responsabilità, tema scudo penale per dirla male, ma per farci capire, dei responsabili bancari che temevano poi, in caso che l'azienda a cui ha titolato il prestito andasse fallita, essere accusati un domani da un giudice di una corresponsabilità nel fallimento. L'autocertificazione in qualche modo vi ha sollevato da questo problema o resta un tema di scudo penale, chiamiamolo in questo modo? Ma guardi, lo scudo penale in realtà quelli sono pratiche di credito, per cui In assenza dello scudo penale, sul quale è inutile secondo me fare discorsi, visto che non c'è, la banca e in particolare i numeri lo raccontano, si è attrezzata per fare le verifiche di merito creditizio, perché a questo punto vanno fatte, le ulteriori verifiche legate agli aspetti appunto antiriciclaggio, antimafia, e essere il più rapida possibile dal punto di vista della delibera e dell'erogazione. Insomma, è inutile a questo punto pensare su ciò che non c'era. In realtà, insomma, il processo funziona. E l'autocertificazione è servita un po'? Beh, sicuramente l'autocertificazione ha velocizzato un po' le pratiche rispetto a prima, quindi quello sicuramente è stato un elemento aggiuntivo. Allora, intanto grazie Stefano Barrese anche per averci anticipato il progetto, appunto, programma sviluppo filiere, 10 miliardi per 2.500 aziende capo filiera in Italia e con più o meno 50-60 mila fornitori collegati. Grazie appunto al responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Andiamo adesso sul GR24, poi da un lato la borsa, ma dall'altro che cosa è successo nelle autostrade liguri, ma anche quelle marchigiane, non solo, cioè cosa sta capitando con i lavori di manutenzione, perché non si capisce bene di chi sia la responsabilità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Sette minuti, adesso andiamo al caos nelle autostrade liguri, ma non solo, anche marchigiane. Prima però devo dare come sempre a quest'ora l'aggiornamento della Protezione Civile. Partiamo dai dati clinici, ci sono 30 ricoveri in meno rispetto a ieri, 3 persone in meno in terapia intensiva. I decessi purtroppo sono leggermente aumentati, sono a 23 in più, ieri erano stati solo 6, il dato più basso da febbraio. E in Lombardia 62 positivi e 4 decessi, i nuovi positivi sono 142 complessivamente, quelli appunto oggi rispetto a ieri, 142 contagiati più di ieri, sappiamo che questo però è molto legato al numero di tamponi fatti. Dati clinici, ripeto, 3 persone in meno in terapia intensiva, 30 ricoveri in meno, 23 decessi. Nel frattempo la 7 è tornata regolare, mentre ci sono 6, la 7 Genova-Milano, avevano raggiunto i 16 km in direzione di Milano, le code in direzione Ronco-Scrivia, invece criticità si registrano ancora sulla 10 Genova-Savona con 6 km di coda, segnalati tra Renzano e il bivio della 10. Sulla 12 i disagi principali riguardano la chiusura Genova-Nervi. Per lavori è chiusa per lavori l'entrata verso Livorno e l'uscita provenendo da Genova. Ma insomma, tutti abbiamo letto cosa è successo nel fine settimana: cantieri, chilometri, ore e ore di coda anche per fare pochissimi chilometri, ma non solo in Liguria. La Liguria è stata clamorosa, ma segnalo per esempio anche il tratto Teramano-Marchigiano, dove ci sono stati ormai da giorni e ci sono da giorni lunghe code. Addirittura alcuni viaggiatori lamentano che per percorrere 100 km ci sono volute fino a 6 ore. Questa mattina ospite di Radio 24 il presidente della regione Liguria, Toti, che ha detto, insomma, qui dopo una trentina d'anni di ritardi nessuno vuole prendersi le responsabilità. Ospite appunto 24 mattina con Simone Spezia e Maria Latella. Qualcuno evidentemente non si vuole anni di ritardi, diciamo una trentina d'anni di ritardi, dopo 2 anni dal crollo del Morandi, quindi 2 anni di colpevolissimo ritardo, e dopo il lockdown lasciato passare in vano, o meglio usato per fare evidentemente controlli sbagliati, secondo una modalità sbagliata, da maggio ha deciso il Ministero di cambiare tipologia di controlli e tempistica dei controlli. Io credo perché nessuno, come sempre accade in questo paese, ha la volontà di prendersi la responsabilità di decidere che cosa è più importante, che cosa meno, su che cosa occorre lavorare immediatamente, su che cosa si può spalmare. Allora si fa come quel medico che opera il paziente e poi dichiara felice l'operazione perfettamente riuscita, il paziente. paziente morto. E poi continua Totti: non siamo stati coinvolti sul piano di interventi e sulla, diciamo, dialettica così tra Ministero dei Trasporti e ASPI e Autostrade per l'Italia. No, guardi, io l'ho chiesto con tre lettere mandate via PEC a Ministero e Autostrade, nessuno non solo lo ha fatto, per la verità non ci ha neanche risposto, tant'è vero che ieri ho firmato un'ordinanza che ha un valore cogente nella nostra regione chiedendo al Ministero e ad Autostrade di presentarmi un piano diverso entro tre giorni da ieri, perché non so più come fare a farmi rispondere. Non è che potevamo metterci d'accordo, vorrei... No, ne ho mandate molte e sono certo di essere che sono state ricevute, non sono certo che sono state lette. Vorrei chiarire che non potevamo metterci d'accordo su niente, perché noi questo piano neppure lo conosciamo, perché come vi è noto noi non abbiamo nessuna competenza sulle concessioni statali che attraversano la nostra regione, né i binari del treno né la rete ferroviaria, quindi non solo non ci ascoltano, ma non conosciamo neanche questo piano nel dettaglio, lo veniamo a sapere via via per gentile cortesia di chi ce lo comunica, ma non abbiamo modo né di conoscerlo né di trattarlo, né tantomeno di, come avevamo chiesto con il sindaco Bucci, di avere un nostro advisor indipendente che ci dicesse la tempistica e la gravità degli interventi da fare, cioè la regione e gli enti locali dalle concessioni di Stato sono totalmente escluse, che è una cosa che con l'autonomia dovremo necessariamente rivedere, perché non voglio mai più che qualcuno ripassi in questa situazione. Allora, così Totti che dice insomma nessuno ci ha fatto sapere nulla e tra l'altro sono state fatte dei lavori che poi non andavano bene ricontrollati, ma io vorrei entrare nel dettaglio su questo, ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore della gestione rete di Autostrade per l'Italia, dottor Enrico Valeri. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi e grazie dell'invito. E grazie anche al nostro Andrea Ferro. Andrea, buonasera, che sta seguendo anche in questi giorni tutta la situazione del traffico in Liguria, ma non solo. Andrea, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, da questo punto di vista io vorrei fare ascoltare in primo luogo a Valeri un ulteriore passaggio di quello che ha detto Totti, quando ha detto sostanzialmente noi avremmo voluto che il Ministero dei Trasporti ci dicesse nella galleria A si interviene subito perché c'è un problema serio, in quella B si può intervenire tra 10 giorni, nella galleria C si può intervenire a ottobre quando la situazione è decongestionata, anche perché la stagione turistica è finita. Ma questo non è un piano di salvataggio delle infrastrutture della Liguria, questo è un piano per salvare, come si dice, la responsabilità di qualcuno in modo totalmente sguaiato e che sta cancellando di fatto ogni possibilità di ripresa della nostra regione e mettendo a rischio la vita e l'incolumità dei nostri cittadini. Questo è quello che sta accadendo oggi, altrimenti si fa un piano serio in cui si dice che nella galleria A si deve intervenire subito perché c'è un problema serio, nella galleria B si può intervenire tra 10 giorni, nella galleria C si può intervenire ad ottobre quando la stagione turistica è finita e quando i nostri porti sono in un momento di tradizionale stanca. Questo è un piano serio concordato con i sindaci, con gli enti locali, con le associazioni di impresa, con i sindacati. Questo fa un ministero, non ingiunge ad Autostrade di fare in un mese e mezzo, alla ripresa dal lockdown, all'inizio della stagione turistica, la ripresa delle partenze dei traghetti e dei porti, di chiudere immediatamente a sorpresa nella notte tutte le gallerie, perché nessuno si vuole assumere la responsabilità di dire cosa può restare aperto e cosa può restare chiuso. È una cosa francamente inconcepibile e intollerabile. Allora, devo dire per completezza di informazione che poco fa il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paolo De Micheli ha twittato: dal 3 luglio verranno progressivamente liberate le arterie stradali dai cantieri, con l'obiettivo di arrivare al 10 luglio con 2 corsie libere su tutta la rete viaria della Liguria. Sono in corso le verifiche sullo stato di 147 gallerie, per noi la sicurezza viene prima di tutto, ma penso che per tutti la sicurezza venga prima di tutto. Però Valeri, vediamo di capire che cosa è successo. Sono da controllare ancora 147 gallerie sulle 285 presenti sulla rete ligure. La prima domanda che le faccio, perché molti ce l'hanno girata, è: ma questi controlli e manutenzione, cioè messa in sicurezza, non potevano essere fatti marzo, aprile, maggio, in pieno lockdown, quando non circolava praticamente nessuno? Ma guardi, a parte che non li abbiamo mai interrotti, pur con tutte le difficoltà del lockdown, noi abbiamo continuato sempre a fare ispezioni senza interrompere nessun tipo di attività. Però per fare un po' di chiarezza occorre premettere alcune cose. Allora, intanto, qual è la normativa che disciplina i controlli in galleria? Mm-hmm. Mentre nelle normative sui ponti si sono succedute negli anni, nei decenni, no? Normative sempre più puntuali, sofisticate, precise, rigorose, l'unica normativa applicabile per i controlli, quindi per la sorveglianza del campo delle gallerie, è una circolare del 67 che è riferita alla genericità delle opere d'arte autostradali. Mm-hmm. Questa, altre azioni, la Francia in primis, perché è più vicina a noi e noi ne sappiamo qualcosa perché la nostra collegata sul Monte Bianco sono adottati da anni questo tipo di controlli, utilizza invece un protocollo diverso che è stato, quindi il governo francese per esempio ha una disciplina specifica per i controlli in galleria. Dopo l'evento che è successo a dicembre all'interno della galleria Bertè, che tutti ricorderanno, quindi mm-hmm. quando è crollato una porzione della calotta, noi abbiamo deciso di marcare una discontinuità con le metodologie di controllo preesistenti, adottando con il contributo delle primarie società di ingegneria, quindi specializzate nei tool in Europa, definire un nuovo manuale, un nuovo protocollo di verifica articolato in diverse fasi, che si sarebbe dovuto compiere nell'arco di un anno, quindi smontare tutti i rivestimenti, fare tutte le attività, fare rilievi con strumentazioni sofisticate, prove sui materiali, quindi per ricostruire una sorta di check-up integrale della galleria a 50-60 anni dalla costruzione. Mm. Questo percorso noi ritenevamo che per complessità, per sofisticazione, per grado di accuratezza e rigore, potesse in qualche modo superare quelle che erano le prescrizioni originarie della circolare del 67, che sostanzialmente dice che ogni 3 mesi vanno fatti dei controlli in un determinato modo, peraltro con indicazioni abbastanza generiche perché riferite a tutte le opere d'arte e non nello specifico alle gallerie. Quindi quando noi ci siamo trovati con l'approvazione di questo manuale che abbiamo proposto al Ministero, chiaramente fin dal mese di gennaio, partendo da subito con i controlli pur nelle more dell'approvazione, quando il Ministero ha approvato questo documento a fine maggio, noi ci aspettavamo che avvenisse anche una conferma dei tempi e delle modalità contenute in questo documento, quindi superando quelle che erano le prescrizioni originali della circolare del 67. È stato chiarito da parte del Ministero che questo non poteva essere possibile e quindi noi di punto in bianco ci siamo trovati costretti a ripetere un grandissimo numero di ispezioni che avevamo già condotto con una fase preliminare per arrivare poi a quella profonda nella fase successiva, e quindi i cantieri, proprio come giustamente ricordava da questo punto di vista il governatore Toti, proprio alla fine del periodo del lockdown noi ci siamo trovati costretti a raddoppiare, triplicare le forze in gioco per aumentare il numero di cantieri e recuperare quella che era stata individuata come un'inderogabile scadenza di debito. Faccio capire anche a me, il problema è che il Ministero non vi ha dato più tempo per fare questi controlli in galleria, ci stiamo occupando delle gallerie, e quindi non siete riusciti a diluirli e avete creato, insomma, e si sono creati tutti un insieme di imbuti, oppure che vi ha chiesto di fare controlli ulteriori? Cioè, voglio capire, le ispezioni fatte nei mesi precedenti non erano soddisfacenti per il Ministero, oppure non vi ha dato nessuna deroga sui tempi? Non so se mi sono fatto capire, perché... No, si è spiegato benissimo, cerco di farmi capire anch'io perché è una materia abbastanza complessa. Nell'arco dell'anno questo nuovo piano di controllo delle gallerie approvato dal Ministero prevedeva una serie di operazioni con una sequenza temporale, un crescendo sostanzialmente di verifiche. In una prima fase era previsto, come ripetevo, un controllo molto accurato, quindi con delle indagini molto approfondite sullo stato della galleria, ma anche dell'ammasso scavato in origine, quindi anche dei terreni che stanno a ridosso delle gallerie. E attraverso in tutto questo percorso era prevista una fase di avvicinamento che verificava in maniera più speditiva le gallerie, con una fase di avvicinamento a questo che era poi la fase di ispezione profonda. E noi avevamo articolato in maniera molto chiara, con grande trasparenza, quali erano i tempi coi quali ci prefiggevamo di fare queste verifiche, sia quella preliminare sia quella profonda definitiva, che sarebbe comunque avvenuta nell'anno solare, quindi in un ciclo ispettivo annuale integrato. È successo che con l'approvazione appunto di questo nuovo documento di linee guida fatto proprio dal Ministero, ci aspettavamo che venissero confermate anche le tempistiche e le modalità con le quali noi per l'ispezione più profondo, capito bene? Cioè confermando sostanzialmente i tempi e l'aspetto formale dettato dalla circolare del 67, noi ci siamo ritrovati con una serie di ispezioni già fatte, quindi eravamo al 90% oltre in Liguria, 100% sul resto della rete, con un'ispezione che ai fini della circolare era incompleta di una parte che noi avevamo previsto in fase 2, quindi abbiamo dovuto ricominciare e anticipare questa fase di smontaggio dei rivestimenti delle gallerie alla prima fase che noi pensavamo di superare senza questi smontaggi. Adesso ho capito, cioè voi avevate fatto a maggio il 90% delle gallerie, per esempio liguri, però il ministero aveva detto l'ispezione è ancora parziale, incompleta. Voi avevate detto la parte, l'altro pezzo di ispezione la facciamo più avanti, mi spiego male ma per farmi capire. Il ministero vi ha detto no, dovete fare anche quella nella prima fase e quindi avete dovuto riaprire i cantieri. Resti con noi perché cade a fagiolo, ho il traffico. Logica, spazio, tempo. Module Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Dunque, adesso do la parola anche al nostro Ferro, Andrea Ferro, però mi dica un'ultima cosa, Valeri, per capire ancora meglio, che cosa vi ha chiesto in più che voi prevedevate di fare nella fase 2 e invece il Ministero ha detto no, dovete farlo nella fase 1 e quindi avete dovuto riaprire cantieri che avevate già ispezionato, su gallerie che avevate già ispezionato? Il completo smontaggio dei rivestimenti che sono stati installati nel tempo in queste gallerie, che sostanzialmente consentono alle acque di percolazione, tenga presente che più del 90% delle gallerie della nostra rete è stato realizzato prima degli anni 80 con tecniche costruttive che non prevedevano l'impermeabilizzazione, quindi questi sono fornici tipici, gallerie, quindi tunnel, dove tipicamente ci sono percolazioni d'acqua. E queste percolazioni d'acqua, per non cadere sulle macchine, devono essere in qualche modo condotte al piede della galleria senza cadere, appunto, senza sgocciolare. E questi rivestimenti vengono messi in tutti quei casi in cui nel corso degli anni si verificano, si riscontrano degli sgocciolamenti o delle percolazioni per convogliare quest'acqua a terra. Consideri che sulla sola rete ligure, dove abbiamo 285 gallerie delle 587 della nostra rete, ci sono circa 360.000 metri quadrati di rivestimenti. Questo però, noi parliamo della Liguria, mi risulta che riguardi anche per esempio la 14 tra Teramo e le Marche, no? Sì, ma dove il problema sulla 14 legato, diciamo, alla fruibilità dell'infrastruttura non è dovuto alle gallerie, lì il problema sono i sequestri dei viadotti disposti dall'autorità giudiziaria, le canterizzazioni imposte, quindi lì ci sono una serie di attività che riguardano i viadotti, le barriere, la riqualifica delle barriere di sicurezza, che sono diverse dalle gallerie, è un altro tema. Andrea Ferro, insomma, da quello che ho capito io, loro avevano fatto delle ispezioni che erano arrivate al 90% delle gallerie liguri per la fase 1 e poi andavano a fare delle ispezioni della fase 2. Il ministero ha detto no, mi fai anche quelle della fase 1 e non dilaziono i tempi, e questo ha creato la riapertura dei cantieri nel periodo peggiore per riaprirli, aggiungo io, perché dopo il lockdown con i primi spostamenti per la Liguria è chiaro che era la fase peggiore. Risulta anche a te questo? Beh, sì, hai riassunto telegraficamente il senso di quello che sta accadendo. Chiaramente, come sottolineava Totti, come dicevi anche te, chiudere diciamo interi tratti autostradali di notte in un momento in cui la Liguria, come peraltro il resto del paese, prova a ripartire, chiaramente ha delle conseguenze devastanti sull'economia di questo territorio, che è un territorio ad alta vocazione turistica. Siamo ormai entrati nel pieno della stagione. Anche però diciamo di logistica, perché poi Savona è un porto importante. Mi hai anticipato su quello che stavo per dire. Infatti è anche questo un nodo strategico sul fronte della logistica del nord-ovest. Teniamo conto che i bacini portuali di Genova, Voltri e Savona messi insieme, racchiusi peraltro nell'ambito della giurisdizione dell'autorità di Mar Ligure occidentale, rappresentano il polo portuale più importante d'Italia, tra i più importanti d'Europa. Giusto per rendere statisticamente anche un po' l'idea di quello che stiamo dicendo, ogni giorno nel porto di Genova, parlo solo del porto di Genova, entrano ed escono 5.500 tir, questa è la media. A questi tir si sommano quelli in transito sulla rotta magari dalla Francia alla Spagna verso l'Italia, quindi stiamo parlando di un flusso fondamentale per la regolarità dei nostri servizi logistici, e infatti la logistica è in fermento. Oggi pomeriggio Trasporto Unito, che è una delle associazioni dell'Albo degli Autotrasportatori, autotrasportatori, ha minacciato il blocco dei tir, perché chiaramente per le aziende di autotrasporto significa tempi allungati, c'è il problema poi dei tempi di riposo e di guida, certo. Quindi sostanzialmente la regolarità dei servizi è assolutamente compromessa e questo ha chiaramente degli oneri notevoli sui bilanci delle aziende. Teniamo anche conto che questa è la terra del ponte Morandi crollato ormai quasi 2 anni fa, e oltretutto poi questo ponte dovrebbe essere anche pronto il 29 di luglio. Questa però è un'altra vicenda, però volevo restare sul problema della congestione. Io ho visto ieri il comune di Rapallo, se non ricordo male, fare causa per l'Italia. Adesso vado a riprendermi anche la notizia, però sì, confermo, ecco, il sindaco infatti l'ha detto anche ai nostri microfoni, esatto, perché per il danno economico che si è generato. Valeri, mi dica una cosa, provando a guardarla in fase diciamo costruttiva, io le ho letto prima il tweet del ministro Micheli che dice: dal 3 luglio verranno progressivamente liberate le arterie stradali dei cantieri, con l'obiettivo di arrivare al 10 luglio con 2 corsie libere su tutta la rete viaria della Liguria. Le risulta? Allora, diciamo che le cadenze temporali indicate dal ministro rispondono a dei passaggi che sono nel programma molto serrato, per il quale ovviamente non finiremo mai di scusarci con i cittadini e con gli utenti che utilizzano le autostrade liguri, ma tanto ci tengo a ribadirlo. Per noi la sicurezza viene al primo posto, ovviamente, e immediatamente dopo il rispetto delle normative. Quindi se ci sono norme non possiamo in alcun modo derogare nel momento in cui ci viene ricordato ovviamente di ottemperare. Il tema delle scadenze è sostanzialmente giusto. Noi abbiamo un binario di attività che riguarda le ispezioni, quindi la fase ispettiva della galleria, e un binario parallelo di attività che naturalmente prevede l'esecuzione di tutti i ripristini che vengono intercettati durante la fase ispettiva. Tenga anche presente che rispetto alle precedenti metodi ispettivi, dove un po' in tutte quello che si faceva per tutte le opere d'arte, nei metodi ispettivi che vigevano in larga parte fino allo scorso anno, era attribuita una buona quota di discrezionalità all'ispettore, quindi l'ispettore nel momento in cui intercettava un difetto faceva anche una valutazione dell'influenza di quel difetto sul comportamento della struttura e quindi di conseguenza, al di là di quello che poteva dire il classificare l'urgenza di quel difetto, un manuale, poi il settore poteva correggere quel tipo di indicazione indicando se era meno o più prioritaria, quindi se occorreva intervenire subito o con un tempo più dilazionato. Oggi i metodi di indagine, per certi aspetti opportunamente, in qualche modo lasciano meno discrezionalità all'ispettore. Quindi c'è stato qualche problemino nel passato su questo, immagino. Comunque mi dica, perché stavo questa è una sorta di rivoluzione che noi abbiamo abbracciato in pieno e l'abbiamo portata anche nei tunnel. Quindi anche nei tunnel oggi utilizziamo un manuale che è ICOA, da utilizzato in Francia, e nel momento in cui c'è un determinato difetto che spesso noi riscontriamo risalente alla costruzione della galleria, quindi stiamo parlando, noi abbiamo intercettato difetti costruttivi, quindi che risalgono a 50 anni fa. Adesso, quanto questi difetti siano diciamo importanti ai fini della sicurezza immediata, non glielo so dire perché non sono un tecnico capace da questo punto di vista. Certamente stanno lì da 50 anni, però questo protocollo, questi manuali, questi da meno autonomia rispetto, ho capito. Prevedono che questi tipi di difetti debbano essere affrontati nell'immediatezza, è quello che stiamo facendo. Io devo ringraziare perché sto chiudendo il programma. Grazie anche al direttore gestione rete di autostrade per l'Italia, Enrico Valeri. Speriamo che i tempi, almeno quelli del ministro De Micheli, vengano rispettati. Grazie al nostro Andrea Ferro. Qualcuno mi dice: guardi che poteva andare peggio perché molti sono in smart working. Sì, insomma, poteva andare peggio, lo usiamo domani come stacchetto musicale. Intanto weekend è successo quello che abbiamo visto. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.